2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 23 maggio 2009. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet attraverso il servizio podcast. Ci sono comunque varie modalità per scaricare il file MP3 della nostra trasmissione, ne parleremo anche nel corso della nostra puntata. Oggi nella seconda parte parleremo di social network, i siti che permettono la condivisione, lo scambio di foto, video, altri contenuti, ma soprattutto che servono per mantenere relazioni a distanza, a volte anche non a distanza. Ci si scambiano foto o anche considerazioni con il vicino di banco. Ci sono decine di servizi per altrettanti scopi, ci sono i social network professionali, ad esempio, ne abbiamo parlato recentemente a 2024, e ci sono quelli dedicati al tempo libero. Spesso sono anche un buon modo per perdere tempo, tanto che qualche azienda e qualche pubblica amministrazione se ne sta accorgendo e vieta, o meglio blocca, l'accesso ai propri dipendenti a questi siti internet. L'ultimo caso riguarda l'azienda sanitaria trentina che ha bloccato l'accesso a Facebook. La misura è stata adottata a scopo preventivo dopo che qualche tempo fa un'infermiera dell'azienda di un'altra azienda ospedaliera, la Santa Maria di Udine, è stata accusata di aver diffuso su Facebook foto di alcuni ammalati intubati nel reparto di anestesia e rianimazione, un fatto per il quale la donna è ora indagata dalla magistratura, che comunque ha preoccupato il direttore dell'azienda sanitaria trentina. Analoghe misure sono state adottate nella regione Friuli Venezia Giulia e anche al Tribunale di Trento. Ma se ci sono aziende che hanno adottato misure del genere, beh, segnalatelo a 2024@radio24.it. Mi sembrano per alcuni versi buone misure per evitare appunto che ci siano dipendenti che perdano ore e ore sul computer scambiandosi messaggi con altri dipendenti o altre persone in giro per il mondo. Si tratta comunque di una conferma anche del successo che hanno i network sociali, un successo che corrisponde poi a traffico in rete che aumenta e in alcuni casi, non sempre, ma si trasforma anche in business per le aziende della rete, per le più intelligenti, quelle che riescono a cogliere questa opportunità. Un interesse che riguarda anche Yahoo, che sta pensando di comprare società che gli permettono di diventare un attore importante nel mercato dei social network e anche di rinnovare i propri prodotti. Il responsabile del settore tecnologico di Yahoo questa settimana, Ari Balog, ha detto che questo è un buon momento per comprare, visto che i prezzi sono scesi, e pur ammettendo che Google è oggi il vincitore nel settore della ricerca, ha anche aggiunto che il futuro sarà molto più complesso dei 10 collegamenti blu attuali, facendo riferimento ai collegamenti che si trovano quando si fa una ricerca su internet, su Google o su altri motori di ricerca. Yahoo attualmente è il secondo motore di ricerca americano con una quota di mercato ad aprile pari al 20,4%, Google è al 64,2%. E a proposito di motori di ricerca, Microsoft ci riprova e potrebbe lanciare nei prossimi giorni un nuovo motore chiamato Kumo con la K, Kumo.com, un servizio che finora è stato sperimentato all'interno dell'azienda. Se provate a guardare su internet, Kumo.com esiste, è una pagina registrata dalla Microsoft, al momento la pagina è bianca, però potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Questo è un settore molto importante, dove si fanno molti soldi, ma un settore che anche Google sa benissimo potrebbe essere soggetto a cambiamenti molto forti nel prossimo futuro, perché fondamentalmente un motore di ricerca si basa su un algoritmo, su una tecnologia, ma proprio lì sta il gioco. Ci sono tante ricerche in corso, tanti soldi investiti in questo settore, perché se uno inventa un algoritmo più intelligente, più efficiente ed efficace di quello di Google, in pochi anni diventa numero uno in questo ricco settore. Torniamo a parlare brevemente di Facebook, perché questo social network e anche la deputata del PDL Gabriella Carlucci sono tra i nemici della privacy su internet secondo la giuria di un premio piuttosto famoso, il Big Brother Awards Italia, il premio Grande Fratello, un premio che dal 1998 viene assegnato in tutto il mondo a chi più ha danneggiato la privacy. Facebook è stato premiato perché si tratta di un'azienda sostanzialmente opaca, così scrive la giuria, difficile da contattare, beh questo ve lo possiamo confermare anche noi, e che pur vivendo dei suoi utenti non rende pubblici piani di business e condivide ben poco delle sue operazioni interne e delle sue strategie presenti e future. E leggendo le regole e anche tutte le considerazioni che vengono fatte da Facebook all'inizio quando ci si registra, in effetti ci si spaventa di come viene trattata la privacy da questa azienda. Gabriella Carlucci riceve invece il premio per la sua proposta di legge che, secondo la giuria, si propone di tutelare libertà e diritti che sarebbero unicamente quelli dei detentori dei cosiddetti diritti di proprietà intellettuale. La Carlucci è stata criticata più volte su internet per questa proposta di legge e adesso parliamo di un altro argomento che riguarda il Piemonte, ma riguarderà presto tutta Italia. Questa settimana è iniziata la fase di switchover nel Piemonte occidentale. Stiamo parlando del digitale terrestre televisivo e di una fase preliminare che precede il completo spegnimento di tutte le vecchie frequenze analogiche per passare completamente al digitale. Il passaggio alla nuova tecnologia è iniziato dalla Sardegna ed è già iniziato in Sardegna, si è concluso proprio tutto il passaggio al digitale terrestre, invece è iniziato in Trentino, non in Alto Adige, solo nel Trentino, in Valle d'Aosta e dal 20 maggio, quindi da questa settimana, in Piemonte occidentale, in un'area che comprende le province di Torino, parte dell'Astigiano e la provincia di Cuneo, dove abitano quasi 3 milioni di persone. In quest'area dal 20 maggio sono state spente le frequenze analogiche di Rai 2 e Rete 4 che ora si possono vedere solo in digitale. Tutte le altre TV traslocheranno sulle frequenze digitali tra settembre ed ottobre. La stessa operazione inizierà il 16 giugno a Roma, quindi tra poco, e nel Lazio, a Roma e nel Lazio, e il 10 settembre in Campania. Tutte le altre regioni italiane seguiranno secondo un calendario che è disponibile su internet fino al 2012. Come abbiamo detto più volte, è necessario dotare ogni TV di un apposito decoder per vedere questi nuovi programmi o acquistare un nuovo televisore. In alcuni casi è necessario fare anche qualche piccolo intervento sull'antenna, ma qua va fatta una valutazione appunto caso per caso. E, attenzione però, perché oltre alla TV c'è un altro apparecchio piuttosto diffuso che è coinvolto in questo passaggio di tecnologia, il videoregistratore. Molte TV sono dotate appunto di videoregistratore. La legge se lo è però dimenticato, come ci ha spiegato Gianfranco Giardina, il nostro esperto di audio e video digitale. Ecco, qui il legislatore non è la prima volta, l'abbiamo detto tante volte a questi microfoni, si è dimostrato molto disattento dal punto di vista tecnico e tecnologico, no? Non si è fatto consigliare bene. Ha in qualche modo normato l'uscita di scena dei TV analogici, che ricordiamo dall'inizio di aprile non possono più essere venduti, quindi se qualcuno in qualche negozio trova ancora qualche TV senza il tuner digitale, sappia che quel TV non potrebbe neanche più essere venduto. Sì, non è regolare. A norma di legge. Ecco, si è dimenticato il legislatore che invece il tuner analogico non c'è solo nei TV, ma c'è in molti altri apparecchi. Per esempio tutti i videoregistratori, sia che siano analogici che digitali, quindi sia su VHS che su DVD recorder, ecco, questi devono sintonizzare i canali per poterli registrare. Sì. Se non hanno la logica, quindi il sintonizzatore digitale all'interno, questi non possono più essere utilizzati per registrare autonomamente, ovviamente, i canali digitali. Quindi praticamente vanno fuori uso, oppure bisogna in qualche modo cercare di salvare anche loro associando un decoder, ma il sistema è molto macchinoso. Sì, sì, sì, molto macchinoso, perché ad esempio la programmazione è quasi impossibile. Io non posso programmare il videoregistratore per registrare, che ne so, prima un canale e poi un altro. Diciamo che se già programmare un videoregistratore è un'operazione che è ritenuta da molti complessa, sì, in questo caso bisognerebbe programmare il videoregistratore per registrare dall'ingresso esterno alle ore che ci interessano e poi programmare il decoder esterno che va associato al videoregistratore, quindi non più un decoder per ogni TV e basta, ma un decoder per ogni TV più un decoder per ogni videoregistratore. Certo. E questo ovviamente bisognerebbe programmare anche il decoder per accendersi all'ora giusta e cambiare canale sul canale che ci interessa sempre all'ora giusta. Un'operazione che francamente riteniamo impossibile. Certo. Senti, grazie a Dio però esistono dei DVD recorder che sono in grado di sintonizzare i canali digitali e quindi sono già autonomi, funzionano perfettamente. Piccolo problema. Sono una quota parte in questo momento abbastanza trascurabile dei prodotti a scaffale, perché gli altri sono ancora in vendita. Quindi, questa è la cosa. Quindi, che... se capisco bene, se io voglio ad oggi comprare una TV nuova, io vado in negozio oppure online, cerco una TV che mi interessa, compro tranquillamente, perché diciamo che oramai tutte le TV a norma di legge dovrebbero essere tutte con decoder integrato. Sì, assolutamente. Se vado a comprare un videoregistratore, posso ancora oggi trovare, come dite voi su AF Digitali, il pacco, cioè una truffa, perché io compro una cosa che fra qualche mese o qualche anno non mi funziona più. Allora, noi riteniamo che sia una truffa perché siamo ormai talmente a ridosso dello spegnimento delle frequenze analogiche, vendere oggi, lasciare a scaffale oggi dei prodotti che fra poche settimane o fra pochi mesi non potranno più registrare autonomamente è in qualche modo vendere un prodotto non conforme, come dice la legge. Quindi è lecito che l'utente si aspetti che questo DVD recorder registri per sempre tutti i canali TV, invece questo non lo potrà fare molto presto. È chiaro che questi prodotti dovrebbero essere dirottati immediatamente su quelle nazioni, anche d'Europa, che non sono così prossime a uno switch off, e quindi per cui questi prodotti sono perfettamente funzionanti. Da noi oramai sono prodotti che si possono considerare assolutamente obsoleti. E quindi attenzione quando andate in negozio oppure online, cercate un prodotto per videoregistrare magari un programma diffuso dal digitale terrestre. Abbiamo più volte parlato di questa tecnologia che sicuramente non rappresenta il futuro della TV, tanto che le aziende tecnologicamente più avanzate guardano invece alla diffusione della TV sulla rete internet, che sia web television o IP television. Ma di questo abbiamo già parlato, sicuramente torneremo a parlare. In una delle prossime puntate Gianfranco Giardina ci parlerà delle TV piatte che sfruttano la tecnologia a LED, TV LCD illuminate con il LED invece che con una lampada. Anche questa puntata del nostro programma sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono online su www.radio24.it alla voce podcast. Oppure, se preferite, potete inviarci una email, vi manderemo tutte le informazioni per ascoltarci in questa modalità che vi offre la possibilità di scaricare settimana dopo settimana in maniera anche automatica, quindi aggiornare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Adesso parliamo del mercato della telefonia mobile che comincia a risentire del rallentamento economico. È con noi collegata da Londra Carolina Milanesi, che è responsabile del settore mobile, come dicono gli inglesi, del settore mobile, i mobile devices, quindi tutti gli strumenti di mobilità, non solo i telefonini, all'interno di Gartner, la società di analisi Gartner. Bentornata a 2024. Grazie. Il primo trimestre del 2009 segnala un primo dato negativo da quando voi rilevate i dati dal 2001, quindi potremmo partire proprio da qua per capire qual è lo stato di salute del mercato della telefonia mobile. Sì, è il primo anno dal 2001 che abbiamo una contrazione del mercato nel primo trimestre, che è un trimestre molto aiutato generalmente dalle vendite in Asia, dove per il nuovo anno cinese le vendite vengono veramente spinte in questo periodo. Se guardiamo allo stato della telefonia, del mercato della telefonia, e lo guardiamo come valore assoluto, le cose sono cambiate molto da quello che vedevamo nel 2006-2007 e esserci un po' abituati alle crescite di 16% o 20%. Però se le guardiamo come valore relativo a altri settori del mercato e tenendo in considerazione l'economia, non sta poi andando così male. Se guardiamo l'andamento nei vari mercati, ci sono dei dati che ci segnalano grosse differenze tra Americhe, Europa, Asia, o grosso modo in tutto il mondo c'è un calo così deciso di quasi il 10%, insomma siamo al 9,4% nel trimestre in tutto il mondo? Per quanto riguarda il primo trimestre in particolare, a dir la verità, l'Europa e il Nord America hanno fatto un po' meglio del resto, sono le uniche due regioni che hanno visto una crescita invece che un decremento del mercato, e questo perché per l'Europa è perché l'anno scorso è stato un trimestre, il primo trimestre è stato veramente un trimestre difficile, mentre per l'America è un discorso che siccome sono stati la prima regione a sentire l'impatto negativo dell'economia, hanno incominciato adesso a stabilizzarsi un pochino. Il resto, se guardiamo a Europa dell'Est, Asia e America Latina, le condizioni non sono molto positive. Ci sono comunque buone notizie se guardiamo al segmento che è ancora relativamente piccolo rispetto al mercato generale della telefonia mobile, ma dicevo il segmento degli smartphone, questi piccoli computer portatili / telefonini, che insomma è sempre difficile definirli. Sì, è l'unica parte del mercato che nonostante le difficoltà sta crescendo, è cresciuta nel primo trimestre ma crescerà ancora di più a livello annuale, dove ci aspettiamo un aumento del 27% anno con anno, paragonato invece a un decremento del 4% per il mercato totale. Questo per quale motivo? Perché ci si sta spostando, cioè il mercato si sta spostando su un nuovo tipo di telefonini, e quindi in molti mercati si abbandonano i telefonini tradizionali che fanno solo il telefonino e si cominciano a vendere, o comunque i consumatori cominciano a preferire solo gli smartphone, oppure perché è ancora un mercato molto piccolo e quindi anche variazioni molto leggere incidono molto in termini percentuali. Qual è il motivo? Un po' di tutte e due, effettivamente il mercato è ancora piccolo, parliamo di un mercato che è intorno al 13% del mercato globale, quindi delle piccole variazioni hanno un effetto molto più grande. E la seconda ragione è che c'è una domanda maggiore da parte sia dei consumatori che da parte degli operatori. Gli operatori che vedono negli smartphone uno strumento per aiutare ad aumentare la loro revenue, quindi il loro ricavato, e quindi sovvenzionano in paesi come l'Inghilterra e la Germania molto di più questi prodotti che non, diciamo, i telefoni più tradizionali. E poi il famoso iPhone di cui tutti parlano ancora, che ha effettivamente dato, diciamo, alla parola smartphone un effetto tutto speciale, e adesso i consumatori guardano a questo segmento in maniera diversa. Io in tutte le occasioni in cui ci sentiamo ti chiedo sempre un commento anche su il comportamento dei principali produttori. Prima di passare ad uno sguardo generale, vorrei proprio partire dal segmento degli smartphone, dove in testa c'è sempre Nokia, ma nelle posizioni 2, 3, 4, insomma le altre posizioni ci sono nomi un po' diversi dal mercato generale. Cito ad esempio RIM, Research in Motion, che è conosciuta per il brand BlackBerry, oppure la Apple, che è conosciuta per l'iPhone, poi i prodotti HTC, Fujitsu, e questa è la vostra classifica. Ecco, che cosa, quali considerazioni possiamo fare su questi produttori e soprattutto su quelli che seguono Nokia, che anche in questo mercato è leader assoluto con il 41 e oltre per cento del mercato? Sì, abbiamo visto che negli ultimi trimestri, in particolare nel primo trimestre dell'anno, in particolare Research in Motion e Apple hanno avuto una buonissima crescita di mercato, intorno al 5-6 punti di percentuale rispetto all'anno scorso. Questo perché per RIM c'è effettivamente un aumento di brand nella parte consumatore, mentre magari un paio di anni fa chi pensava a BlackBerry pensava a uso per l'ufficio e per il lavoro, adesso BlackBerry è diventato anche un po' uno status symbol tra il consumatore. Se hai un BlackBerry è perché sei importante, la gente ti deve mandare degli email, devi essere raggiungibile in ogni momento, e quindi questo ha aumentato un attimino la brand di RIM nel lato consumatore, ma anche perché gli operatori sono diventati adesso secondo me, più attenti a vendere in maniera più appropriata BlackBerry al consumatore. Un consumatore non spende quanto spende un lavoratore che deve usarlo appunto per l'ufficio, per l'email, per essere sempre in contatto. E quindi ci sono state delle variazioni, anche per esempio il fatto che adesso RIM venga messo su prepay invece che soltanto su contratto. E questo ha aiutato senz'altro RIM. Per quanto riguarda l'Apple, ovviamente c'è ancora molta attenzione intorno al l'iPhone, stiamo ancora aspettando il famoso iPhone killer che non abbiamo ancora visto, e trepidazione adesso per quello che viene, che tutti si aspettano, il nuovo device che verrà annunciato probabilmente l'8 di giugno a San Francisco. Nel cappello, diciamo, di HTC comprendiamo anche i telefoni con brand e sistema operativo Google? Sì, esatto, che in questo trimestre hanno avuto, diciamo, un impatto ancora relativo, parliamo intorno alle 600.000 unità, quindi non grande volume, ma che ci aspettiamo diventeranno sempre più importanti, specialmente verso la seconda metà dell'anno, quando anche altri venditori come Samsung, LG e Motorola porteranno nuovi prodotti basati su Google Android sul mercato. ...2024. Ci sono parecchi modi per seguire 2024 nel nostro spazio settimanale in onda su Radio 24, il sabato nel pomeriggio tra le 15.30 e le 16.30, oppure online sul nostro sito internet www.radio24.it, oppure attraverso un software per la gestione del podcast attraverso appunto il servizio podcast. Tutte le informazioni sono online oppure via mail al nostro indirizzo 2024@radio24.it. Tra poco parliamo di social network, adesso concludiamo parlando dello stato del mercato della telefonia mobile, un mercato sempre molto importante dal quale arrivano parecchie novità settimana dopo settimana, dicevamo dei sistemi operativi. Allora c'è da rilevare e da sottolineare che, come dice Gartner, il sistema operativo più diffuso al mondo, non solo sui telefonini Nokia ma anche su altri telefoni, è Symbian, che ha una quota di mercato pari al quasi il 50%, siamo al 49,3%, ma in questo settore, cioè nel segmento dei sistemi operativi, si stanno affacciando nuovi protagonisti. Uno tra i più aggressivi e più interessanti è sicuramente Android, il prodotto promosso da Google, al quale poi partecipano anche altre società. È con noi Carolina Milanesi, analista di Gartner, responsabile mondiale delle ricerche sul settore mobile. Carolina, vedo che Nokia è ancora numero uno, ma la quota di mercato in questo trimestre si è abbassata di un po'. C'è il rischio di vedere una Nokia numero due nei prossimi anni? No, secondo me questo pericolo non c'è. Il decremento che abbiamo visto della Nokia nel primo trimestre, a dire la verità, è molto legato alla loro situazione degli smartphone. Mentre hanno un portafoglio prodotti molto molto forte per quanto riguarda la fascia bassa del mercato, dove offrono veramente dei prodotti che hanno una buona proporzione di qualità-prezzo, nella fascia alta mancano un prodotto vincente. Stiamo aspettando l'arrivo dell'N97 a giugno per vedere se questo aiuterà un pochino a migliorare la situazione. Nel trimestre però hanno avuto l'aiuto, diciamo, del 5800, il primo device che hanno avuto, il primo telefono che hanno avuto con questo touch interface su anche un prodotto che loro chiamano Comes with Music, che praticamente ti dà un telefonino e un anno di musica da scaricare sul telefono gratuitamente. Se guardiamo la posizione numero 2, c'è sicuramente un dato positivo per Samsung, che si sta comportando particolarmente bene, se non sbaglio. Assolutamente, Samsung ha avuto veramente un buon trimestre e in generale dall'anno scorso ha migliorato e ha consolidato la seconda posizione grazie a diverse cose: un'attenzione senz'altro al touchscreen per tutto il loro portafoglio prodotti, e anche un aumento nel numero dei prodotti che sono smartphone rispetto agli altri prodotti nel portafoglio prodotti. Nelle altre posizioni voi segnalate LG al 9,9%, Motorola al 6,2% e Sony Ericsson al 5,4%. Da sottolineare che Motorola era finita alla posizione numero 5 e risalita al numero 4, ma probabilmente perché Sony Ericsson non ha fatto molto bene in questo trimestre. Volevo farti un'ultima domanda su Motorola, visto che si tratta comunque di un'azienda che ha un nome noto, una grande tecnologia alle spalle, una grande storia. A che punto è la ristrutturazione? Quindi possiamo vedere novità interessanti nei prossimi mesi? Ancora poco o nulla? Poco o nulla per quanto riguarda la riorganizzazione. Purtroppo il 2009 comunque rimane un anno difficile. Cercare di vendere una parte della tua azienda quando l'economia è come tu oggi non è decisamente facile. Potremmo vedere dei miglioramenti dal punto di vista di portafoglio prodotti, perché appunto ci aspettiamo che arrivino finalmente sul mercato dei prodotti nuovi basati sul sistema operativo Android. Bene, io ringrazio Carolina Milanesi per essere stata con noi, buon lavoro, a presto. A presto, arrivederci. Non abbiamo parlato di quote di mercato, abbiamo solo fatto riferimento al numero 1, numero 2, numero 3, numero 4. Beh, giusto per completezza, diciamo che Nokia è al 36,2%, stiamo parlando di quote di mercato di vendite mondiali. Samsung al 19,1%, quindi c'è ancora molta distanza tra il numero 1 e il numero 2, poi c'è LG al 9,9%, Motorola 6,2%, Sony Ericsson al 5,4% e tutti gli altri che hanno una quota del 23%, quindi nella categoria altri ci sono molti produttori con tante piccole quote, ma che stanno diventando sempre più importanti negli ultimi anni. Insomma, un quarto del mercato fatto da piccoli produttori. Ci sono ad esempio anche nuovi entrati come Acer, che tra l'altro in settimana ha annunciato che entro l'anno arriverà un cellulare con sistema operativo Android, quindi Acer entra nella famiglia di prodotti Android. E sempre a proposito di cellulari, un'ultima notizia riguarda Toshiba, che ha annunciato la fine della produzione dei telefonini in Giappone, quindi abbandona questo settore in Giappone. Toshiba, che è sempre stato un nome importante nel segmento della telefonia mobile. Adesso cambiamo argomento, parliamo di social network. Prima però vi segnalo due dibattiti interessanti da seguire in rete. Il primo è quello che segue la proposta di Robert Murdoch, il numero uno della News Corporation, di fare pagare le notizie online, di cui abbiamo parlato recentemente. Molti editori italiani si dicono d'accordo, alcuni sono più prudenti, riconoscendo la difficoltà di imporre un modello a pagamento in un mondo che ha imparato a leggere oramai un flusso di notizie continuo online gratuitamente. Un dibattito interessante che sicuramente continuerà nei prossimi mesi, forse anche nei prossimi anni. L'altro dibattito riguarda il piano per costruire in Italia una rete internet capace di arrivare a tutti i cittadini e anche capace di garantire le velocità necessarie ai nuovi servizi internet. Stiamo parlando fondamentalmente del Next Generation Network. Questa settimana, tra l'altro, il sito Wikileaks, che pubblica documenti spesso segreti, ha messo online il rapporto realizzato da Francesco Caio per il governo italiano, in cui si propongono alcune alternative per la realizzazione di una rete internet per i prossimi anni. Questo rapporto doveva essere segreto, ora è online e tutti lo possono leggere. Ci sono alcuni dati che confermano l'arretratezza della nostra rete e anche la diffusione della banda larga in rapporto ad altri paesi europei. Questo rapporto sottolinea anche che gli italiani esclusi dall'internet veloce sono ben più numerosi di quanto dicano le stime ufficiali di Telecom Italia, secondo cui l'ADSL raggiunge il 98% della popolazione. Secondo Caio è infatti finta banda larga quella relativa alle connessioni che vanno sotto il megabit al secondo, e anche le ADSL a 20 megabit sono in molti casi un bluff, visto che di rado superano i 10 megabit. Caio dice al governo che per far parte dei leader su internet bisogna far presto, perché i giochi si faranno da adesso ai prossimi 3-5 anni, e sono numerose le ricerche che mettono in relazione la crescita del prodotto interno lordo con la crescita dei servizi internet e della banda larga in modo particolare. nel rapporto presentato da Caio, che contiamo e speriamo di avere anche ai nostri microfoni nelle prossime settimane, ci sono varie opzioni con differenti gradi di copertura del territorio, naturalmente con diversi investimenti, ma in generale viene ribadito che il ruolo dello Stato per i prossimi anni dovrebbe essere importante. Vedremo come sarà poi, come procederà questo dibattito. A confermare lo stato dell'Italia in fatto di diffusione delle connessioni internet veloci ci ha pensato questa settimana l'OCSE. L'Italia è 22esima su 30 stati nelle statistiche aggiornate al dicembre 2008, con 19,2 linee ogni 100 abitanti tra banda larga, fibra ottica e altri sistemi, a fronte di una media OCSE di 22,6 linee ogni 100 abitanti. Il paese numero uno per diffusione di internet in banda larga è la Danimarca. Facciamo bene, facciamo meglio per quanto riguarda il nostro paese sul fronte prezzi, perché l'Italia è al 25esimo posto, quindi una delle ultime in fatto di prezzi, e da questo punto di vista è meglio essere ultimi piuttosto che primi, vuol dire che in Italia internet costa abbastanza poco. Questa è la nostra ultima parte dedicata ai social network, una categoria piuttosto giovane per quanto riguarda internet. Fino a qualche anno fa questo era un fenomeno piuttosto marginale, oggi è un fenomeno invece che riguarda gran parte dei navigatori della rete internet. Uno dei primi nomi collegati al fenomeno dei social network è MySpace. Saluto Francesco Barbarani, che è country manager di MySpace in Italia. Benvenuto a 2024. Grazie, buongiorno a tutti. Due parole su questo che è un social network, ma sappiamo che i social network sono tutti basati su un concetto unico, però diversi l'uno dall'altro. Che cosa trova un utente che si registra su MySpace? Allora, un utente che si registra su MySpace trova la creatività. La creatività tra i 60. MySpace nasce negli Stati Uniti qualche anno fa e nasce come sito legato al mondo della musica, giusto per darti un numero, e poi ne parleremo poco di numeri, però per farti capire il fenomeno, su MySpace ci sono 5 milioni di band attive, che vanno dagli U2 ai Coldplay, ma anche tantissime band emergenti. Quindi E ci rilasciamo anche al discorso della creatività, quindi è una piattaforma che nasce col mondo della musica, ma poi ha dato la possibilità di essere utilizzata come palcoscenico a una serie di creativi che comunque gravitano intorno al mondo della musica, e parlo di videomaker, fotografi, registi, e questo ha dato la possibilità, partendo dalla musica, a tutti gli utilizzatori di MySpace di condividere le proprie passioni e le proprie creatività. Quindi questa è un po', secondo me, una forma di unicità del nostro social network. Tante persone che hanno profilo da noi e su altri social network utilizzano MySpace come vetrina, nel senso buono, positivo del termine, che siano appunto dei musicisti e mettono i brani musicali, che siano dei fotografi, delle foto e quant'altro. Quindi piattaforma, vetrina di contenuti e di condivisione tra la community dei contenuti prodotti dagli utenti. La musica, se non sbaglio, ha ancora un ruolo importante. Allora, MySpace, sì, la musica è importantissima. Noi ci accorgiamo da quando inseriamo le esclusive musicali, le anteprime in Italia, giusto anche qui per darti un numero, per farti capire il fenomeno, sul nostro territorio abbiamo 270.000 band. Anche nel nostro caso andiamo dai profili di Jovanotti, della Pausini, quindi artisti particolarmente celebri che utilizzano MySpace per dialogare, no? Il dialogo, il linguaggio è molto importante su queste piattaforme, accorciare le distanze con i propri fan, a fenomeni che utilizzano la piattaforma per farsi conoscere, quindi organizzano serate, coinvolgono i propri amici, fanno ascoltare i propri brani musicali, quindi come strumento di visibilità tra i 60. Se io fossi una band, o comunque guidassi una band, perché non avere solo un sito internet? Cioè, qual è il vantaggio di avere uno spazio, una pagina su MySpace? Ma secondo me il vantaggio è l'approccio e il mood che ha un utente quando entra su MySpace. Io lo vedo anche con i nostri inserzionisti, che hanno i loro siti istituzionali ma si aprono contemporaneamente magari uno spazietto anche da noi, e vai a colpire, nel senso buono del termine, gli utenti in un momento particolare. Quando sei su un social network, noi abbiamo tante ricerche che ci arrivano dagli Stati Uniti ma anche in Italia, l'approccio dell'utente è un approccio particolare, no? Sei veramente te stesso, vuoi condividere le tue passioni, sei particolarmente aperto, quindi hai una predisposizione anche verso messaggi pubblicitari, ma anche dal punto di vista creativo, diverso rispetto a un sito istituzionale che di solito ha un taglio un po' più, passami il termine, inquadrato, no? Sì, sì, quindi dici il rapporto e la comunicazione più fredda su un sito normale invece nel social network è diversa. Sì. Addirittura, scusami se interrompo, sì, noi abbiamo fatto una ricerca e sembra che sui social network le persone sono totalmente se stessi, addirittura se hanno un segreto da confessare quasi preferiscono confessarlo su un social network che parlare con i propri amici, perché proprio su social network c'è la possibilità di aprirsi completamente. Sì. Senti, vostro modello di business come funziona? Cioè banalmente come fate i soldi? Chi ti paga lo stipendio? Allora a me paga lo stipendio News Corporation. Ecco, per perché fortuna. Ricordiamo che MySpace, sì, ecco, fa parte di News Corporation. È stata acquistata nel 2005, quindi l'impero di Murdoch, diciamo. Ci ha visto lungo, perché quando ha fatto questo tipo d'acquisto ha avuto tante persone che l'hanno giudicato. Sì, sì. No, noi facciamo i soldi con la raccolta pubblicitaria, quindi diamo la possibilità alle aziende di avere il classico banner, quindi come su tutti i siti editoriali, ma ci spingiamo un po' oltre, perché oltre al banner classico diamo la possibilità alle aziende di aprirsi proprio uno spazio, quindi comunicare, interagire, dialogare, engagement, un termine che a me piace molto che viene utilizzato negli Stati Uniti è flirtare, no? Diamo la possibilità alle aziende di flirtare con i propri consumatori, quindi non ti faccio solo la pubblicità ma ti do la possibilità di darmi un commento, dire che le mie scarpe sono belle, sono brutte, scaricarmi le mie foto, sensation seeker, no? L'utente come portavoce del tuo brand, sì. Questo secondo me è molto importante. Senti, voi all'interno del panorama di Murdoch avete dei rapporti di collaborazione, scambio con altre realtà, banalmente in Italia con Sky oppure Io arrivo da Sky, quindi ho fatto 2 anni Sky prima di arrivare in MySpace e ad oggi stiamo sondando, l'obiettivo è quello di con Sky, con Fox Channel, di trovare dei punti di contatto perché è la naturale evoluzione del nostro prodotto. Senti, c'è chi ha detto tra l'altro proprio 2024 su Radio 24 che uno dei fenomeni ai quali si assiste guardando al grande fenomeno dei social network è quello della migrazione, cioè prima tutti su un sito, poi ci si sposta su un altro, poi magari si torna su quello di prima, poi ci si sposta su un altro e che ne so, magari il prossimo anno inventeranno un nuovo social network e molti si sposteranno su quello. Voi che cosa ne pensate? Ah sì, questo per un motivo secondo me abbastanza intuitivo. Noi abbiamo una forte concentrazione di ragazzi giovani tra i 15 e i 34 anni e tu Enrico sei meglio di me che proprio questi target, soprattutto in fascia anagrafica più giovani, quindi 15, 22, 18 e quant'altro, fai fatica a fidelizzare queste persone, quindi inevitabilmente ci sono i fenomeni del momento. Devo dire che la nostra fortuna è quella di essere stati tra i primi, se non addirittura il primo, quindi avere comunque un brand forte e consolidato, avere una connotazione forte legata al mondo della musica. È chiaro che, non lo nascondo, in questo momento forse ci sono dei fenomeni più cool, che vanno forse più di moda di MySpace, però noi ad oggi comunque abbiamo 2 milioni e mezzo di utenti, abbiamo 3.000 nuovi utenti che si iscrivono quotidianamente, quindi devo dire che siamo contenti con il nostro target. 3.000 nuovi utenti al giorno? Esatto, che si aprono in Italia, che si aprono uno spazio, la propria paginetta e cominciano a socializzare. Sì, che è un numero comunque incredibile, sì. Insomma, se poi pensiamo ai numeri della rete internet italiana, che non sono, certo, facciamo riferimento a milioni di persone, ma non stiamo parlando insomma di numeri esageratamente alti. Voi siete un sito internet che ha un punto di inizio, cioè gli Stati Uniti, e molte cose succedono ancora negli Stati Uniti, dico bene? Sì, l'obiettivo nostro, ecco, va detto, è molto importante, noi siamo comunque una realtà di social network che ha un team di 15 persone in Italia, quindi noi abbiamo una parte di marketing, una parte che gestisce contenuti, controlla i contenuti, questo è un aspetto molto importante. Sì, poi ne parliamo, sì. È un aspetto molto importante e quindi facciamo localizzazione, quindi il nostro sito è in italiano e man mano che vengono rilasciate applicazioni, prodotti, servizi nuovi dagli Stati Uniti vengono poi importati in Italia. Mm-hmm. Senti, esiste in qualche modo una correlazione tra il mondo dei social network e il commercio elettronico? Cioè, banalmente, io sono all'interno di uno spazio, all'interno di MySpace, e poi, che ne so, finisco su un sito dove posso comprare musica, oppure posso comprare prodotti, biglietti, eccetera, eccetera. Allora, questa cosa è successa negli Stati Uniti, noi abbiamo fatto delle joint venture con le major discografiche e sta già avvenendo anche in questo caso oltreoceano. In Italia attualmente no. La cosa di cui ci siamo accorti, molto carina secondo me, sul mercato italiano, che abbiamo tantissimi microimprenditori. Mi spiego meglio, rilasciandoci al discorso della creatività che facevamo prima, abbiamo chi disegna t-shirt, chi disegna tazze, che utilizza MySpace come, anche in questo caso, vetrina, no? Quindi non è la vetrina della mia canzone, ma la vetrina della mia creatività. Vuoi vedere come sono bravo a disegnarti le magliette? Sì. Lo vedo, lo comunico attraverso MySpace, poi le vuoi comprare, vai su piattaforme di e-commerce o vai addirittura nei negozi. Però, rilacciandoci al discorso dei creativi, è molto utilizzata per farsi conoscere, no? Senti, dicevi prima del controllo. Che cosa può capitare? Quindi perché vi preoccupate tanto di controllare quello che succede in MySpace? Beh, noi abbiamo un'attenzione veramente, veramente forte. Abbiamo, a parte una persona che lavora con noi, che si occupa di questi aspetti in altre aziende del web, con esperienza decennale, noi abbiamo contatti con le varie associazioni, dal MOIGE per farti capire, lavoriamo con la Polizia Postale. L'obiettivo è quello di tutelare al massimo i nostri utenti. Quindi abbiamo sia delle persone negli Stati Uniti che controllano di fatto cosa viene caricato anche sul sito italiano. E devo dire che è una cosa molto importante è che il più delle volte sono gli utenti, la community, i primi a segnalarci dei contenuti da censurare. Chiaramente appena c'è qualcosa di fastidioso, di dannoso, interveniamo. On top a questo, noi abbiamo una serie di tool, software che vengono utilizzate negli Stati Uniti, per cui ogni qualvolta ci sono delle parole che vengono magari associate a comportamenti dannosi. Abbiamo una protezione sui minori incredibile, un minorenne che si apre un profilo su MySpace ha il profilo protetto, quindi decide lui chi far entrare a far parte del suo network. Diciamo che il minorenne potrebbe dire che non è minorenne, questo però sì, non questo, lo potete controllare. No, però tieni presente che da una ricerca che è stata fatta, più dell'80% delle informazioni che vengono lasciate su siti di social network corrispondono alla verità, perché l'obiettivo è quello che il minorenne entri in contatto con dei minorenni. Se io che ho 37 anni dico di averne 15, di essere una donna che vivo nel sud Italia, entro in contatto con delle persone che non mi interessano. Certo. Bene, io ringrazio Francesco Barbarani per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi. E così concludiamo questa puntata di 2024. Torniamo la prossima settimana, sempre sabato, tra le 15.30 e le 16.30. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Appuntamento tra 7 giorni. You are disconnected.